GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Indagato per omicidio colposo, il giovane alla guida dell'auto finita nell'Edra, Gemona, in cui è morto un ventenne. Inizia a Roma il processo in contumacia ai 4 agenti egiziani accusati della morte di Giulio Regeni. 450 candidati per 50 posti di lavoro stagionali a grado il giorno del recruiting day della GIT. Un letto caldo, abiti puliti, una doccia, 24 posti nel nuovo dormitorio gestito dalla Caritas di Udine. La laurea Bassi dell'OGS di Trieste in Antartide, dal mare di Ross, novità poco incoraggianti sui cambiamenti climatici. Buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Come avete sentito dai titoli, è stato indagato per omicidio colposo il giovane alla guida dell'auto che domenica notte è finita nel canale Ledra di Gemona. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, studente di ingegneria a Udine. Su di lui sono stati eseguiti esami tossicologici e alcol test. È stato ricoverato a Tolmezzo per le ferite riportate insieme al giovane che era seduto accanto a lui e che pure si è salvato. Intanto sul luogo dell'incidente è un via vai di persone. Ciao Pete, riposa in pace. Un cuore rosso scritto con l'indelebile sul guardrail. E poi il via vai di persone, in auto o a piedi, che vengono a vedere il luogo dell'incidente pieni di interrogativi. E una donna che porta dei fiori e un lumino. La famiglia di Matteo Pittana, 20 anni, morto intrappolato domenica notte nel sedile posteriore dell'auto finita nel canale Ledra della Pedemontana gemonese, è molto nota nella borgata di San Pietro. Il giovane lavorava in prosciuttificio con il papà. Il corpo si trova nell'ospedale di Tolmezzo e a stretto giro verrà eseguita l'autopsia, forse nell'ospedale di Udine. Intanto la procura conferma l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale del giovane alla guida del mezzo finito fuori strada. Si tratta di un ragazzo di Osoppo, anche lui ventenne, studente di ingegneria a Udine, descritto in paese come un ragazzo vivace, solare, che fa il DJ per passione ma che non ha mai creato problemi in passato. Nel sedile accanto un altro ventenne di Trasaghis. Entrambi sono stati ricoverati a Tolmezzo per accertamenti, su di loro è stato eseguito l'alcol test e gli esami tossicologici. Sono stati trovati dai carabinieri in stato confusionale nei pressi del ponte sul Tagliamento, mentre si allontanavano a piedi dal luogo dell'incidente. Avevano tentato di chiedere aiuto suonando alle abitazioni circostanti. Il signor Oreste Simeoni, che già ieri ha dichiarato ai nostri microfoni che i ragazzi hanno rifiutato inspiegabilmente l'invio di soccorsi per poi dileguarsi, oggi verrà ascoltato dai carabinieri. Lo abbiamo incontrato in un bar della zona. Non riesco a darmi pace, conosco benissimo i genitori di Matteo, un ragazzo esemplare, racconta. Quando sono venuti a suonarmi non potevo immaginare cosa fosse successo, mi hanno solo detto di avere loro delle fratture, non hanno parlato di una persona intrappolata in auto. Nel momento in cui ho detto loro che avrei chiamato i soccorsi e così ho fatto, loro li hanno rifiutati, si sono allontanati barcollando. Da quanto mi risulta, conclude Simeoni, sono stati trovati dai carabinieri mentre rientravano a piedi a casa. Gemona, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla politica. La seduta del Consiglio regionale in corso è stata aperta dalla celebrazione del giorno del ricordo. Il Presidente del Consiglio regionale ha espresso una ferma condanna, senza se e senza ma, delle violenze del regime comunista di Tito nel dopoguerra. Il Presidente della Regione Fedriga ha detto che il compito delle istituzioni è far conoscere la verità sui crimini che furono commessi. Successivamente è stato osservato un minuto di silenzio, ma sentiamo un resoconto del vertice di maggioranza che ieri ha discusso di modifiche alla legge elettorale. Si abbasserà il quorum per l'elezione già al primo turno dei sindaci nei comuni oltre i 15.000 abitanti. Mentre prima occorreva raggiungere la soglia del 50% dei consensi, ora basterà fermarsi al 40%. Se non la si raggiunge, si rivota dopo 15 giorni, con al ballottaggio i due candidati più votati. È questa la novità più rilevante del vertice di maggioranza svoltosi ieri, vertice che ha previsto di modificare qualche regola anche per i comuni fra i 5.000 e i 15.000 abitanti. In questi municipi è stato innalzato a 3 il numero dei mandati consecutivi dei primi cittadini, recependo in questa maniera la norma nazionale. Nessun limite alla quantità di mandati nei comuni sotto i 5.000 abitanti. L'orientamento emerso ieri arriverà poi in Consiglio regionale sotto forma di disegni di legge. L'obiettivo è applicare le nuove norme già alla tornata amministrativa del giugno prossimo, quando, a assieme alle europee, andranno al voto diverse amministrazioni comunali anche nella nostra regione, 113 se non dovessero esserci nuovi scioglimenti nelle prossime settimane. Il centrodestra ha preso tempo su un altro tema, le nomine in alcune società partecipate come Autostrade Alto Adriatico e Friulia. Nella prima, la necessità è dettata dalle dimissioni dell'attuale presidente Gabriele Fava, che il governo vorrebbe al vertice dell'INPS. Per la finanziaria regionale, invece, non dovrebbe essere in discussione la riconferma di Federica Seganti. Altro tema, la riforma del sistema elettorale regionale, con eventuale premio di minoranza, attribuzione di seggi, tetto dei mandati e candidabilità dei sindaci. Tutti temi su cui se ne riparlerà fra 6 mesi. Antonio Cajazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi a Roma si è tenuta la prima udienza del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore di Fiumicello ucciso al Cairo nel 2016. La prima udienza è stata dedicata esclusivamente ad eccezioni preliminari da parte dei difensori dei 4007 egiziani che sono visti come accusati. E nel procedimento potrebbero sfilare in qualità di testimoni ex premier, ex ministri, funzionari. Tra questi il presidente in carica della Repubblica Egiziana, Abdel Fattah al-Sisi, l'ex premier Matteo Renzi e l'ex ministro degli esteri Paolo Gentiloni. Nei confronti dei 4 imputati, a seconda delle posizioni, le accuse sono di concorso in lesioni personali aggravate, omicidio aggravato e sequestro di persona aggravato. Il processo si apre dopo che la Consulta, nel settembre scorso, ha fatto uscire il procedimento dal pantano in cui era finito a causa della irreperibilità degli imputati, cioè il generale Tariq Sabir, i colonnelli Attar Kamal e Hussam Helmi e il maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif. La Presidenza del Consiglio, costituitasi parte civile, ha sollecitato, in caso di condanna degli imputati, un risarcimento di 2 milioni di euro. Si chiama Friuli in Comune, Vos Initiativis dal Territorio, il nuovo programma che andrà ad arricchire il palinsesto radiofonico in marilinghe della sede RAI del Friuli Venezia Giulia. Il programma sarà presentato domani nella sede udinese della Regione alle 10. Il primo ciclo di 7 puntate andrà in onda su RAI Radio FVG da sabato 2 marzo a sabato 13 aprile a partire dalle 14. Sarà disponibile in podcast su RAI Play Sound. La Grado Impianti Turistici offre 50 posti di lavoro per la stagione estiva e al recruiting e hanno aderito più di 450 persone. Sono diverse le figure professionali che la GD Grado cerca per la stagione che ormai è alle porte. Si va dagli addetti alla ristorazione, ai cassieri, ai bagnini, all'area terme beauty, animatori, amministrativi. La maggioranza delle posizioni sono stagionali, anche se la stagione, come ha spiegato il direttore della GD Sergio Schiavi ai candidati, è ormai sempre più lunga. Si può andare fino agli 8 mesi. Per accogliere i 450 candidati, GD ha prolungato il recruiting day anche a domani, 2 giorni in cui i candidati che si sono registrati entro il 18 febbraio sul sito della Regione compilano i moduli che verranno esaminati da una commissione che ne valuterà l'idoneità e la conseguente ammissione al colloquio orale. Dai colloqui orali verranno stilate le graduatorie che tengono conto per gli stagionali turistici anche della prelazione come da contratto. Tra i candidati presenti oggi molti studenti, ma anche persone che hanno alle spalle esperienze lavorative decennali anche in altri ambiti. Quasi tutti residenti nei comuni limitrofi, perché il contratto con la GIT non prevede l'alloggio. Prevede però un corso di formazione dal titolo GIT Academy, che ha come obiettivo il team building, lo sviluppo delle competenze di vendita e marketing e la comunicazione. Grado, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Aperto a Udine il nuovo dormitorio per persone senza fissa dimora, 24 i posti letto disponibili fino a primavera. Un letto caldo, un cambio d'abiti pulito e la possibilità di curare la propria igiene personale. È quanto offre il dormitorio per persone senza fissa dimora allestito in via Valente, negli spazi dell'ex scuola Fritz e degli ex laboratori dell'Istituto Stringer nel quartiere Aurora di Udine. Con 24 posti letto e le docce è gestito dalla Caritas, a cui sono stati affidati gli spazi dal comune di Udine, che sosterrà un costo di circa 50.000 euro. La struttura rimane aperta dalle 7 della sera alle 7 del mattino seguente e oltre ai posti letto per la notte mette a disposizione un cambio d'abiti e un set di biancheria intima pulita proveniente dall'emporio solidale della Caritas. A chi ne usufruirà verrà dato anche un kit di base per l'igiene personale con asciugamano, sapone, spazzolino e dentifricio. La struttura resterà aperta tutti i giorni fino al 30 aprile. Caritas ha pensato all'allestimento della zona notte con posti letto e tendaggi oscuranti, ha creato un'area docce e assicurato la pulizia e igienizzazione degli spazi con il trattamento dell'acqua per i servizi. Gli addetti della Caritas si occuperanno di accogliere gli ospiti cercando allo stesso tempo di instaurare con loro un dialogo per avviare un percorso specifico in grado di restituire un certo grado di autonomia. Il dormitorio si aggiunge ad altre iniziative avviate dal comune di Udine, come la stazione di posta e la struttura con 6 posti letto per l'emergenza freddo di via Pastrengo e dalla Caritas, che ha già attivi, tra gli altri, l'asilo notturno Il Fogolar e la mensa. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Alla pediatria dell'ospedale di San Daniele è stato donato un ecografo di ultima generazione da parte dell'Associazione Friulana Oncologia Pediatria Lucca. Il macchinario diagnostico ha un valore di 25.000 euro ed è completato da un lettino di visita pediatrico. E all'azienda regionale di coordinamento per la salute ARCS del Friuli Venezia Giulia sta fornendo all'omologa agenzia della regione Sardegna esperienze e modelli per progettare un magazzino farmaci centralizzato al servizio del sistema sanitario dell'isola. La gestione del magazzino centralizzato dei farmaci del nostro sistema regionale è un modello annoverato tra i tre più innovativi in Italia, assieme a quelli di Emilia-Romagna e Toscana. Per il video promosso in occasione della giornata della lingua madre istituita dall'UNESCO nel 1999, celebrata il 21 febbraio, sono stati selezionati gli operatori di diverse minoranze linguistiche. L'Agenzia regionale per la lingua friulana ARLEF ha scelto Raffaele Puppo, infermiere nel reparto di medicina dell'ospedale di San Daniele del Friuli. Il 28enne originario del Friuli Collinare ha raccontato quanto per lui sia importante dialogare in friulano con i pazienti, perché questo crea un rapporto di maggiore vicinanza e lo aiuta a trasformare l'ambiente ospedaliero, di per sé un po' freddo e distaccato, in qualcosa di più familiare. Il video è diffuso attraverso i canali dell'Unione Europea ed è visionabile sul profilo Facebook dell'ARLEF. Accordo tra la Friulana Web Industry Digital Company, che lavora all'innovazione e alla digitalizzazione dei processi commerciali relativi alla compravendita in ambito automotive dell'usato, e il colosso Decra Italia. L'intesa prevede lo sviluppo integrato di nuove soluzioni sugli aspetti peritali e di authority delle reti distributive automotive, con particolare focus sul contratto d'agenzia. Sono le 12.43, passiamo al meteo, il cielo è sereno su pianura e costa, da sereno a poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 14 gradi, a Gorizia 15 gradi e mezzo, a Udine e Pordenone 14 gradi e 5 decimi, in Aremontana a Tolmezzo 10 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 9 gradi e mezzo, a Tarvisio 8, Piancavallo 5 e mezzo, Sappada 3 gradi e 5 decimi. In quota sul Monte Zoncolan 3 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 2 gradi e mezzo, sulla Costa Grado 15 gradi e mezzo, a Lignano 12 gradi e 5 decimi. Ora le previsioni dell'ARPA. Per oggi cielo in genere poco nuvoloso, temperature massime decisamente miti per il periodo, specie in pianura. Ed è ancora in missione polare la nave Laura Bassi, che ora si trova nel mare di Ross, la profonda baia situata in Antartide. A bordo, oltre ai ricercatori, i campioni raccolti e le carote di ghiaccio che serviranno a studiare l'evoluzione del clima nell'ultimo milione e mezzo di anni, evoluzione che purtroppo non presenta novità incoraggianti sullo scioglimento dei ghiacci. Iniziata lo scorso 6 gennaio, quando la nave rompighiaccio Laura Bassi ha lasciato il porto di Lyttelton in Nuova Zelanda, si concluderà a breve, a marzo, la 39esima spedizione in Antartide finanziata dal MIUR nell'ambito del programma di ricerca al Polo Sud. A bordo 39 persone coinvolte come personale di ricerca e un equipaggio navigante di 23 membri. Per la prima volta la missione era condivisa con il progetto antartico neozelandese, a cui afferisce un team di 12 persone. Mauro Celussi, ricercatore dell'OGS di Trieste. In questo momento siamo nel settore più nord-occidentale del Mare di Ross, vicino a Cape Adare, e stiamo, diciamo, lentamente arrivando a conclusione delle attività di campionamento. Abbiamo, diciamo così, trovato tutte le masse d'acqua che stavamo cercando, che non è banale, e siamo molto contenti di questo. Dopodiché, appunto, dovremo andare a fare le analisi sui campioni che abbiamo raccolto, analisi che si svolgeranno presso i laboratori di OGS. A bordo avete anche le preziose carote di ghiaccio? Sono un record eccezionale di quello che è stata l'atmosfera nelle ultime migliaia di anni, perché il ghiaccio, formandosi, essendo ghiaccio meteorico, quindi ghiaccio che viene dal consolidamento della neve, trattiene al suo interno delle bolle d'aria che sono poi analizzabili. E questo, diciamo, svelerà la storia appunto degli ultimi millenni. A Luisa Fontanotto, dottoranda dell'Università di Otago in Nuova Zelanda, chiediamo qual è la vita di bordo. Impegnativa, molto bella, stiamo vedendo posti bellissimi, lavorando tantissimo, sulla nave si lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi c'è sempre qualcosa da fare, qualcosa da imparare, e allo stesso tempo invece abbiamo anche momenti di tranquillità in cui possiamo riposarci e stare un po' più tranquilli per prepararci alle prossime operazioni. A quando il rientro a Trieste? Il viaggio dalla Nuova Zelanda consta in circa 40-45 giorni, per cui, diciamo, fine aprile. Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. È stata battezzata Città 2030 la campagna di Legambiente, organizzata per promuovere una mobilità sostenibile a zero emissioni e per chiedere città più vivibili e sicure. Oggi è in calendario la tappa triestina dell'iniziativa per fare il punto sulle scadenze del 2030, sul dimezzamento delle emissioni inquinanti, con misure che spaziano dal rispetto dei nuovi limiti fissati per la qualità dell'aria fino all'obiettivo di ridurre le vittime degli incidenti stradali. Appuntamento a Trieste al Circolo della Stampa di Corso Italia alle 17. Tra i relatori Andrea Werenfennig, presidente del Circolo Verde Azzurro Legambiente Trieste, a cui abbiamo chiesto una sintesi del suo intervento. Per ridurre le emissioni inquinanti bisogna fare in modo che le persone se ne rendano conto, cioè il fatto che respirano aria inquinata e quindi c'è un danno a loro, alle loro famiglie, alla salute. Questo dei costi, quindi investire dei soldi diciamo, per migliorare questa situazione porta sia a un benessere che anche a un miglioramento economico, perché ridurre i costi sanitari, questo non ci pensiamo, ma è stato più volte calcolato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, i costi sanitari dovuti all'inquinamento del traffico e delle emissioni urbane sono enormi, malattie respiratorie, malattie cardiache, allergie, eccetera. Quindi noi dovremmo investire soldi che adesso spendiamo in sanità, mentre invece potremmo prevenire migliorando appunto la vivibilità. Ovviamente occorre che le persone usino i mezzi di trasporto pubblico o i mezzi non inquinanti, quindi ad esempio a parte le auto elettriche, ma soprattutto le bici e andare a piedi, su distanze brevi. Questo è il principale problema, cioè molta gente usa l'auto anche per fare distanze brevissime. Questo vuol dire che non c'è una gestione della mobilità. E in queste città in cui non c'è gestione della mobilità vuol dire che non si pensa a dare accesso alle persone, ai negozi, ai servizi, alle scuole, a distanze brevi. Questo è il problema. Quindi creare una città delle vie brevi è il primo modo per togliere di mezzo traffico. L'altro è quello di migliorare il trasporto pubblico, perché a Trieste abbiamo un buon trasporto pubblico, ma non è ancora il massimo. Non abbiamo una rete forte di trasporto in sede propria, che potrebbe essere un tram o un filobus, che noi proponiamo da anni, che adesso il governo ha finanziato. Questa rete forte a Trieste avrebbe senso, perché la città si distende su un asse di diversi chilometri, basterebbe una rete di tram per togliere di mezzo moltissime automobili e anche autobus inquinanti. Poi ovviamente c'è il discorso della sicurezza, che riguarda sia i pedoni che gli stessi automobilisti che i ciclisti, cioè facendo dei percorsi protetti o diciamo sicuri in strade riservate ai ciclisti, più persone potrebbero andare in bici, soprattutto nelle zone pianeggianti della città, il che vuol dire rimuovere tante automobili che non servono. A Magnago il CONI ha organizzato oggi un incontro con gli studenti per parlare di sport inclusivo e riflettere sul peso della differenza di genere e del razzismo. L'iniziativa rientra nel progetto Uguali Diversi e proporrà altri due incontri nei prossimi giorni. Tra i relatori intervenuti oggi al Teatro Verdi c'era Erika Maran, presidente del Vicenza Calcio Femminile e coordinatrice nazionale del calcio femminile. L'abbiamo intervistata. Lei ha incontrato pregiudizi, discriminazioni e oggi cosa è cambiato? Il terzo mio anno questo come presidente del Vicenza Calcio Femminile e il mio secondo anno come coordinatore nazionale del calcio femminile nella Lega Nazionale Dilettanti. Diciamo che ha perfettamente ragione quando dice che è uno sport prettamente maschile ed è ancora purtroppo considerato tale. Ci sono ancora tante discriminazioni, c'è ancora tanto da fare, però credo che ci sia oggi l'opportunità per farlo e per fare in modo che questo sport effettivamente cresca e abbia il merito di dare a queste ragazze che tanto fanno, perché sono 3 allenamenti alla settimana più la partita del sabato, la partita della domenica, la coppa. Insomma, hanno tantissimi impegni, credo insomma che vada fatto tanto perché meritano tanto. E cosa si può fare per aiutarle? Si possono fare, oltre a allenarle bene e di affiancare loro persone assolutamente competenti, si devono fare momenti come questo, momenti in cui si parla di discriminazioni, si parla di parità di genere, si parla di lotta, si parla di lotta al patriarcato e si fa in modo che queste ragazze possano crescere serene affiancando loro appunto persone preparate anche da un punto di vista psicologico. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport, pallamano Serie A bronze, la ASM Jolly di Campoformido ha tirato un sospiro di sollievo e festeggiato la prima vittoria stagionale vincendo per 23-20 contro la pallamano Leno. Il risultato purtroppo non ha smosso il loro ultimo posto in classifica, ma potrebbe rappresentare una svolta al primo campionato in Serie A bronze. Prossima partita in casa contro la corazzata Belluno. Adesso torniamo a parlare di cultura. Sono numerosi i progetti in corso al Castello di Miramare di Trieste, includono iniziative come le nuove aperture rese possibili dalla fine dei restauri delle serre antiche e delle rovine della Cappella di San Canciano. Oggi la presentazione delle attività ai nastri di partenza. Si è svolta questa mattina al Castello di Miramare a Trieste la presentazione delle attività del museo per il 2024. Abbiamo qui la direttrice del museo, Andreina Contessa, che ce le spiega. Naturalmente sono previste nuove aperture e parlo dei restauri già iniziati che andremo a concludere. Il primo sarà quello delle serre antiche, uno degli edifici più belli e storici del parco, e poi le rovine della Cappella di San Canciano. Poi c'è il progetto di aprire un nuovo visitor center e bookshop nel piano terra del castelletto. E poi ci sono naturalmente tutti i progetti ai quali stiamo lavorando e alcuni di questi li intraprenderemo proprio quest'anno. L'idea è proprio quella di rendere più accessibile e inclusivo il parco e il castello di Miramare, quindi lavoreremo molto in questo senso. Trieste, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà dedicato alle sculture preromane di Nesazio il terzo evento collaterale della mostra Istri in Istria, allestita al Museo d'Antichità Winkelmann di Trieste. Sotto la lente lo studio del gruppo scultoreo scoperto nel 1903, che raffigura un cavaliere nudo che sta montando a cavallo e una donna nuda che allatta e sembra in procinto di partorire. Gruppo scultoreo dapprima datato come preromano, ma in seguito considerato di epoca diversa e di cui è ancora in dubbio il significato. Appuntamento a Trieste, a Palazzo Gopcevic, alle 17.30. L'incontro sarà condotto da Paolo Paronuzzi, docente di geologia applicata all'Università di Udine, a cui abbiamo chiesto di parlarci del significato del gruppo scultoreo. Il significato è la parte ovviamente più delicata, ma è strettamente connessa alla sua datazione, perché è ovvio, faccio un esempio, tutti gli archeologi che l'hanno attribuito al VI-V, qualcuno raramente al VII, quindi allo stile arcaico o classico, ovviamente una volta stabilita questa cronologia l'attribuivano sulla base dei riferimenti iconografici greci e quindi la dea che protegge il parto oppure la dea che protegge i fanciulli, no? La madre dei fanciulli, e quindi è chiaro che una volta che l'attribuzione cronologica è quella si va verso questo tipo di iconografie. Se invece io abbandono questo campo già se entro nell'ipotesi micenea ho una situazione spirituale, sociale, culturale profondamente diversa. Se poi addirittura mi spingo ancora più indietro, allora veramente mi tremano i polsi. Secondo lei era un gruppo unico di questa donna e di questo cavaliere, oppure sono state due statue che per caso sono state abbinate così? No, nella ricostruzione che poi è stata esposta per tanti anni al Museo Archeologico di Pola, il blocco è unico, cioè lui è risultato poi frammentato, ma la ricostruzione è unica. È ovvio che ci mancano diverse parti della statuaria, però è un pezzo unico. Cosa possiamo mettere in evidenza? Questo sì, anche se muoversi sulla strada della ricostruzione culturale è difficile. Però vediamo il cavallo, che è evidente, ci sono anche altri frammenti scultorei di altri cavalli, quindi questo cavallo è speciale. Non ci sono frammenti di tori, di pecore, di capre, no, cavalli, uomini e donne. Gli uomini sono spesso rappresentati col membro eretto, i tifallici. Questa donna è una donna che allatta, molto formosa, che sta partorendo. Quindi c'è un legame molto forte con il problema o l'atto della procreazione. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del giornale radio regionale. Alla parte tecnica Mauro Ciccarelli e Caterina Cabrelli, in segreteria Laura Sarasini. Prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR, il telegiornale alle 14 sul terzo canale TV, il giornale radio torna invece su queste frequenze alle 15. E da Maria Spezia e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.